Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? E io direi di iniziare questi magazine, peraltro già iniziati perché è intersezione continua tra le rubriche, grazie alla prima pagina nello spazio culturale del Fatto Quotidiano. Ho concluso anticipando il libro Un viaggio tra fascino e magia dei luoghi di sepoltura. Io preferisco depositi delle memorie, come ben sapete, l'importanza del cimitero che diventa museo, che diventa aula di Ateneo, che diventa micro e macro sensazione, che diventa costantemente motivo per apprendere e sensibilizzare le persone. Intanto ricordo l'avvicinarsi della ricorrenza che ho a cuore, che è quella del 2 novembre, anche se non mi voglio fossilizzare su quella data, anche se ammetto è importante. Allo stesso tempo denuncio, anche senza scadere nell'integralismo, anzi tutt'altro, piuttosto preferisco l'indifferenza, che è quella del 31 ottobre. Basta, non ne parlo più. Guida illustrata per chi ama i cimiteri, Giulia De Pentor, definita l'influencer dei cimiteri, anche questa è un'affermazione così, ma visto i tempi che corrono, dai, facciamo finta di accettarla. E reduce del fortunato podcast Camposanto, firma per Feltrinelli, un volume corredato da immagini, da un glossario e un atlante prezioso per tutti i camposanti, ovvero chiunque si è sedotto dai luoghi di sepoltura, una passione niente affatto funesta. Questo lo dico già da tempo, anzi da tempi non è oltre che sospetti, niente affatto sinistra, perché visitare i monumenti piuttosto che le tombe è un modo per imparare più cose impossibili sulla storia, sull'abitudine di altri popoli, di altre culture. Meno male, ci stiamo arrivando piano piano, dai, forza e coraggio. Insomma, questa guida illustrata per chi ama i cimiteri, poi continua l'approfondimento a pagina 18. Non è che bisogna essere influencer per amare questo, semplicemente bisogna avere una sensibilità che vada a colpire in maniera assolutamente totale quello che è l'animo. E ricordate che non è oltre che ovviamente l'atto di devozione e di ricordo, ma è qualcosa di veramente importante per noi. Ho voluto aprire in questo modo, anche un po' improvvisato, i nostri magazine, leggendo in prima pagina sul Fatto Quotidiano, a proposito di quello che è lo spazio culturale di questo quotidiano, scusate la ripetizione dovuta al nome della testata, secondo me un aspetto molto importante dove la letteratura ha dato certamente in maniera importante, ma per quanto riguarda determinati aspetti si può sempre fare di più. A tra poco. Particolare per la Sonar Collective RAS che stiamo ascoltando. Rhythmic Altered State, uno stato alterato della ritmica. RAS è l'acronimo di questo lavoro. È il momento del sacro, se vogliamo, perché sapete che si occupa anche di questi aspetti, i magazine, da attenzione a tutto ciò, come alla filosofia, alla storia, storia della religione. A pagina 14 prendiamo tutto libri della stampa. È l'articolo, insomma, che più mi ha incuriosito, perché ci parla di uno stilita. Sapete chi erano gli stiliti? Adesso ve lo racconto. Intanto Simeone lo stilita, miracoloso e puzzolente, salì su una colonna per avvicinarsi a Dio. In epoca bizantina gli asceti, sospesi in preghiera tra terra e cielo, attraversavano i fiumi, andavano sulle montagne, andavano nei villaggi più dispersi per attrarre malati, pellegrini, fedeli, disperati, persone che avevano bisogno assolutamente di spiritualità per le loro difficoltà. Laura Franco racconta il fenomeno che per due secoli si sviluppò in Siria prima che passasse poi all'Islam arabo, ma è una situazione assolutamente di intersezione tra le religioni monoteiste. Si imponevano terribili mortificazioni, privandosi di cibo, di sonno e di igiene personale, tanto più che i pellegrini venivano attratti proprio, anzi sentivano, è il caso di dire, la presenza degli stiliti, proprio perché insomma non erano profumatissimi in seguito a questo trattamento che si imponevano. Si mettevano sopra capitelli, sopra piccole colonne, restavano in meditazione, restavano in preghiera. E il primo fu Simeone. Nel 412 salì su una colonna per essere più vicino a Dio e non scese mai più. Lassù pregava, mortificava la propria natura terrena, sopportava fame e intemperie. Il suo esempio fu seguito da qualche centinaio di altri asceti. È un affascinante viaggio al di sopra del mondo di Laura Franco, dove racconta il fenomeno degli stiliti, che inizialmente si sviluppò in Siria per un paio di secoli prima che quella terra, cerniera tra continenti e cultura, passasse alla Roma bizantina, dalla Roma bizantina all'Islam arabo. Perché la fecero, insomma, lo fecero, è difficile capirlo. Sicuramente tra tutte le imitazioni di Cristo fu una delle più estreme e, data la sua spettacolarità, anche una delle più popolari. Le colonne in luoghi impervi, come ho detto, tra fiumi e montagne, villaggi e situazioni disperate, con il santo appollaiato sopra, macilento, puzzolente, talvolta in estasi, talvolta severo come un arcangelo, erano mete di pellegrinaggio variopinto e anche tumultuoso. Yeah. buongiorno a te, Manuela. Certo, assolutamente. Detto più volte che i cimiteri, depositi della memoria, sono pieni di storia, di vita, di introspezione, di crescita dell'animo e della nostra cultura. Grazie della dritta sul libro, mio zio mi ha insegnato che per conoscere un luogo, qualsiasi luogo, bisogna visitare due cose: la sua chiesa e il suo cimitero. Io sono d'accordo, anch'io. E in un cimitero c'è tanta vita, oltre che storia, si confermo. Grazie Manuela e buona giornata, buona settimana. Siate esotici, ah, perché è il Monumentale di Parigi. Beh, certo, ovviamente, beh, ci mancherebbe, ma vi assicuro che anche il piccolo cimitero di Campania, il piccolo cimitero a ridosso del mare, o il piccolo cimitero in una collina, così in una valle, sono altrettanto densi e pieni di storia, di cultura e di vita, oltre che di letteratura, arte. Dieci anni passati a lavorare nei cimiteri, cosa mi ha colpito, oltre che tutte le immagini che vi ho dato, così addirittura a volte penso ammorbato, no? L'immagine del cimitero è lo sguardo al cielo. Ecco, lo sguardo al cielo mi collega a pagina 4, per quanto riguarda alias edizione del sabato del Manifesto. Che cosa sono le nuvole? Avete mai giocato a dare un'immagine alla nuvola? Per me è bellissimo, anzi a volte è la nuvola stessa che ti dà l'immagine, ti dà l'ispirazione. Ecco, per me assomiglia, io li vedo. Il gioco di portare le immagini alle nuvole o le nuvole che regalano a noi immagini è qualcosa di veramente, oltre che fantasioso, anche spettacolare. Nella casualità, la bellezza, no? In questo caso, però, dall'articolo a pagina 4 di Alias vi è uno sguardo anche scientifico con il meteo. La progressiva trasformazione di un servizio diventato sempre più di alto gradimento. E in effetti vedo che adesso, in seguito al meteo, anche noi del resto abbiamo un meteo curato e condotto all'interno del format del giovedì. This is Rock and Roll Radio, dalle 10.30 alle 12.30 c'è lo spazio di Benedetta Cucci che porta una sorta di meteo legato anche a una colonna sonora per tutto ciò. No? Quindi vi è un alto gradimento che non è più una mera realtà di informazione legata al meteo. Ma quando si parla di meteo, per chi è della mia generazione non può dimenticare un colonnello, e questo colonnello magari non lo dico chi era, me lo direte voi per avere il saggio che presenterò. Ops, scusate, la ristampa che presenterò a breve. E voglio nome e cognome, non mi basta nome e cognome di questo colonnello dell'aeronautica militare che sempre in divisa si presentava, a volte era anche scherzato per così dire, perché tu non sei mica, quando qualcuno provava a fare delle previsioni era un appuntamento fisso con lui. E pensate che a Massa Carrara, città d'origine, hanno dedicato a questo personaggio, a questa figura, a questo colonnello, questo meteorologo, anche un museo. anche la presentazione della ristampa, un autore tanto particolare quanto talentuoso, eh? Intanto siete molto preparate e preparati, eh? Sì, per chi è della mia generazione, insomma, e magari non solo, è una figura, era un appuntamento fisso e poi era diventato ormai un modo di dire. E non voglio sempre, beh, sempre, poi così è, tanto è inutile nascondersi, essere critici nei confronti delle digitalizzazioni e delle app. Guarda che tempo fa, guarda che usi meteo.it oppure te ne ho un altro, non vorrei sbagliare, Trevini pare si chiama. Qual è più preciso? Ma adesso però un pochettino più freddo, visto che stiamo parlando di meteorologia. Intanto una ristampa che è per l'autore Pierre Michon, autore di questo lavoro particolarissimo, queste biografie di vite minuscole, dopodiché è entrata sui problematici rapporti che ci sono nella società tra le persone e come queste vite minuscole siano assolutamente protagoniste. Abbandonato dal padre, Rimbaud tra gli esotistes, tra gli ambienti di Rimbaud, spicca il circolo di parnassiani fissati su tela da Fantine Latour. Questo articolo così un pochettino non immediato, ecco, diciamo così, ma che dà l'idea di quella che è la scrittura di Pierre Michon, alla quale vi affezionerete veramente nell'immediato, nonostante il contenuto certamente non arriva, diciamo, subito, però è qualcosa che rimane. Vite minuscole per me è un lavoro, un libro veramente molto bello. Allora, Dino Edmondo Bernacca, esattamente, intanto la risposta si dice, beh, non sei mica Bernacca, oh, beh, oh. O se qualcuno si azzardava, oh, Bernacca. Ma Dino è arrivato quarto, quindi andiamo sul podio, al terzo posto Enrico, un grande abbraccio Enrico. Sì, dice, questa la so, Edmondo Bernacca. Sei arrivato un pochettino in ritardo, ma grazie per aver giocato con il Breakfast Club. Poi Maria, buongiorno William, la risposta esatta è Edmondo Bernacchi. Grazie Maria, ben ritrovato. Amante dei cimiteri, amante dei depositi della memoria, risponde nell'immediato, è Manuela, grazie Manuela, risposta esatta, ovviamente è il colonnello Edmondo Bernacca per le previsioni del tempo. Poi c'era, mi pare, l'almanacco del giorno dopo, poi iniziava il TG, insomma questo era un palinsesto. Adesso non avendo la televisione, ieri, oh, sapete, ieri ho guardato per la prima volta, perché sapevo che era un maghetto, ma io non mi sono mai addentrato in... Quindi intanto complimenti Manuela, verrai ricontattata nell'immediato dopo il format. Poi ovviamente ringrazio anche chi ha giocato, invito a restare in frequenza, perché come ben sapete le sorprese non finiscono mai al Breakfast Club. Comunque vi dicevo, a proposito di un linguaggio televisivo completamente diverso, ieri mi sono visto Harry Potter. Allora, ovviamente sapevo che era questo ragazzino che è protagonista in una saga e che è un mago, ecco, sapevo questo. Un po' il fenomeno, se vogliamo, però del resto lui dai poteri, che caspiterina, mi rendo conto. Effetti speciali bellissimi, ecco, questo come è stato strutturato dal punto di vista degli effetti speciali, quello è fenomenale. Le scale quando si muovono, i ritratti che prendono vita, le candele sospese nella sala refettorio della scuola di magia. Beh, per quanto riguarda gli effetti speciali è stato, mi ha colpito molto, poi sì. Ma non l'ho detto a caso, perché riprenderemo la seconda parte con la lettura del Corriere di Sera, della sera, scusate, che ci parlerà anche di tutto ciò. E non solo, a tra poco con i magazine. Autori francesi come Michonne, Pierre Michonne, che è veramente uno degli autori che più mi ha colpito. La definizione che io ho letto in bolognese tra gli zutiste è zutiste. Ecco, l'ho detto meglio, in effetti è francese, però il mio francese ha solo la R, che è una malformazione della pronuncia più che altro che un aspetto francofono. Comunque, con Rimbaud e con Pierre Michon, gli Zoutistes, così prima l'ho letto un po' così, la bolognese, dai. Era un circolo di poeti, ecco, questo invece già più, era un circolo di poeti informali, ma non solo di poeti, anche di musicisti, di scrittori, che si trovava in un hotel a Parigi, da lì il nome, e avevano questo termine da definirli scontenti, disubbedienti, ma con questo aspetto di scontentezza, un po' non mi va. Devo precisare il termine perché magari è anche interessante. Tra l'altro, questo modo di è un modo di definire le persone svogliate, ecco, sia in francese che in inglese, è un termine per definire le persone che protestano così, dimostrando di non averne voglia. Come è bello questo brano, tra l'altro, di Lewis Taylor, uno dei soul men bianchi che più per il mondo dell'AC jazz e del new jazz colpisce nelle playlist mattutine del Breakfast Club. E il buon Harry Potter, perché c'è un collegamento con i magazine? Allora, ieri ho fatto questo fuori programma, no? C'era Harry Potter, guardiamo Harry Potter, ok, tra l'altro... tutto il rispetto, ci mancherebbe, non sono un grande amante delle saghe, però resto colpito dagli effetti speciali. Ma guarda un po', poi tra la lettura del Corriere della Sera, pagina 54, grazie a questo festival di cui vi parlerò, noi costruiamo il magico mondo di Harry Potter, e guarda un po' chi mi trovo, il Mina Lima è lo studio londinese di graphic designer che ha reso visibile l'universo fantastico nato dalla penna di J.K. Rowling, oggetti di scena, mappe, arredi e corredi, infatti sono meravigliosi, dei film e poi anche di nuove edizioni dei romanzi, anche di altri classici, e a Lucca Comics, dove racconteranno i loro segreti che qui in parte vengono anticipati per quanto vediamo nelle immagini e nelle fotografie tra pagina 54 e 55 della lettura del Corriere della Sera. Trucchi per le mappe, usano delle carte, delle cartine, anche se cartine è un termine che non è esatto, però usano, dai, delle mappe come dei tutto città inglesi, ecco, vengono rielaborati e vengono presi da delle strade fra l'altro esistenti, però vengono rielaborati, un po' invecchiati così, ma vi ricordate il tutto città? Ecco, ha fatto parte dei trucchi di Harry Potter. Peraltro sono riusciti benissimo, a volte con le cose semplici che poi si ottiene. Tac! attacco di mercoledì, la ripresa sarà in mostra, riportato anche dai magazine, questa esposizione alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Vi invito alla visita della Pinacoteca perché è uno dei tesori immensi della nostra città. È già partita il 28 ottobre, sarà fino all'11 febbraio per conoscere da vicino Guercino nello studio. Anche grandissimo, non anche, è grandissimo imprenditore, come artista ma anche un imprenditore che sapeva il fatto suo e come entrare nel mondo straordinario di questo artista, averne anche all'interno della casa studio dove si trova proprio vicino alla Pinacoteca, cioè in via Santalò al numero 3. Sapete la storia di Santalò? Ve la dico, è in bolognese, ma la sapete, ma ve la dico, dai, perché io sono legato a queste espressioni dialettali. Quando succede qualcosa di strano, si dice la fat compagna Santalò, cal muore po' s'ammalò. E ha fatto una tragica fine, insomma, che è deceduto, poi si è ammalato. Quindi è strano, è abbastanza improbabile, una cosa strana. Casa studio si trovava proprio lì. E anche qui abbiamo la mappa, bisogna seguire determinati indizi per trovare esattamente. Insomma, sono tutti progetti per entrare nel mondo di un artista assolutamente straordinario. Un artista che a parere personale, insomma, ho trovato riconoscibile ma allo stesso tempo raffinato. Un artista che va sul velluto. Ecco quello che a me viene come emozione nell'immediato per le opere del Guercino è proprio questo, un artista sì, immediato ma anche raffinato, allo sguardo ti dà l'idea proprio di andare sul velluto. Ho contattato in conferenza stampa, avremo le curatrici per la rubrica in mostra di giovedì, quindi la presentazione completa. Questa è un'anticipazione legata ai magazine con la direttrice della Pinacoteca. Ringrazio, non finirò mai di ringraziare Maria Luisa Pacelli della Pinacoteca Nazionale di Bologna, che appunto ci dà qualche traccia per entrare nello studio del Guercino. Sentiamo le sue parole. Maria Luisa Pacelli, la Pinacoteca di Bologna, sempre attivissima, ci regala anche questa esposizione e questa bellissima sorpresa. Come arriva Guercino? Come nasce questa idea? Ma l'idea nasce da un invito della città metropolitana di Bologna a partecipare a un vasto progetto di valorizzazione del Guercino in occasione della riapertura della Pinacoteca di Cento che attendiamo fine novembre. E partendo questo grande progetto sull'artista e avendo noi in collezione delle opere veramente straordinarie, importantissime, ci siamo sentiti di dover aderire al progetto, quindi abbiamo sviluppato una mostra attorno alle opere del museo con degli inserimenti che completano, diciamo, un racconto. E l'abbiamo inserita, come facciamo oramai, è il nostro modo, no? di presentare delle mostre, l'abbiamo inserita dentro il nostro percorso espositivo, perché quello che si vede prima e quello che si vede dopo è in continuità in certo. Ogni caso. E vi è anche una bella presenza estesa di famiglia. Sì, oltre a Guercino è stata l'occasione per presentare anche le opere dei suoi allievi e collaboratori, perché il focus della mostra è sull'attività dello studio, uno studio che tra Cento e Bologna fu una sorta di impresa con un taglio, diciamo, imprenditoriale inedito per l'epoca, ma al di là di questo aspetto, che oltre al maestro fece fiorire tanti pennelli significativi a partire dal fratello, celebre naturamortista, e quindi abbiamo voluto anche dare, diciamo, testimonianze e documentazione dell'attività dello studio nel suo complesso. Il talento del Guercino, come dico spesso per il jazz, in cui riconosco da determinati percorsi gli assoli dei musicisti, in un'opera del Guercino riconosciamo nel... Anche il talento del Guercino è un talento assolutamente immediato, è una dote innata che poi lui ha coltivato con grande intelligenza. Pensiamo che non disegnava sulla tela, disegnava prima, faceva degli schizzi preparatori dove studiava l'idea della composizione e poi andava di getto. E quello di cui si stupivano anche i suoi contemporanei era l'unione della qualità e la rapidità di esecuzione. Allora, durata dell'esposizione? L'esposizione durerà fino all'11 febbraio. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie a te. Guercino per me è il più grande per allora la provincia di Bologna, Cento che è esattamente geograficamente un punto di incontro, e guardate quanto sia un punto di incontro anche il Guercino con il suo studio, con la parte finale dell'Officina Ferrarese Estense, no? Con Bonomi e con la tradizione che parte da Dosso Dossi, che guarda un po' è stato uno degli ispiratori dello stesso Guercino. Ok, ne parleremo in maniera più approfondita, però ho voluto dare il via a proposito di Magazine e di questi visual data, perché vi è un visual data per riconoscere l'impresa del Barbieri, del Guercino, eh? E qui oggi il visual data lo dedichiamo a questa anticipazione con la direttrice della Pinacoteca Maria Luisa Pacelli. Giunti al termine, domani avremo il Mood Groove che si avvicina al 2 novembre, quindi avremo modo di ricordare commemorazione dei defunti. Il Mood Groove di domani è anticipato da un altri suoni che è in intersezione col Jet Live, perché vi saranno concerti sia il 31 ottobre che il 1 novembre al Jazz Club di Ferrara. Ho intercettato Francesco Bettini prima del concerto di Stefan Richards, bellissimo, ne parlerò domani per avere anticipazione dei concerti tra domani e domani l'altro, così copriamo ogni concerto, ogni incontro. La prima colazione in diretta è Breakfast Club e l'appuntamento è a domani. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con l'Edipè Enciclopedico dopo la pubblicità, Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, Caffè e Paglia con Mingo & Company e dal vostro William Piana. Un caloroso abbraccio, una buona settimana e un buon ascolto sempre su Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.